Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Il risultato degli stress test affonda Monte dei Paschi, che cede il 20%, e Carige che perde il 13%. Netto calo la borsa di Milano, con indici giù in questo momento dell'1,5%. Arriva la risposta dell'Italia a Bruxelles, correzione di bilancio dello 0,3%, va evitato il quarto anno di recessione, o risollevarci sarà un problema. Oggi incontro tra governo e sindacati, mentre non si placa lo scontro nel PD e tra CGIL ed esecutivo. Camusso sul posto fisso, Renzi non sa di cosa parla. L'Ucraina vota per l'Europa, ma il partito di Poroshenko, più aperto alla trattativa con Mosca, non ha la maggioranza per governare da solo. In Tunisia le elezioni premiano i laici. L'allerta meteo per Parma era arrivata due giorni prima dell'alluvione. Scontro tra la minoranza PD e il sindaco Pizzarotti, che mercoledì riferirà in Senato. Meridiana conferma la mobilità per 1.600 persone. In centinaia a Roma davanti al Ministero, ci collegheremo col pilota che da due settimane è in cima ad una torre dell'aeroporto di Olbia. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete scriverci, come sempre, effettogiorno@radio24.it. In apertura parliamo dei risultati degli stress test che sono arrivati ieri. Sono i test sulla situazione patrimoniale delle banche europee. Ce ne sono 13 che sono state bocciate, tra queste due italiane, il Monte dei Paschi e Carige. Ci colleghiamo in diretta con Livia Zancaner per fare un punto innanzitutto sulla reazione dei mercati e sul perché di questa reazione. Livia, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, i listini hanno iniziato la giornata in rialzo, ma poi hanno iniziato a scendere, complice anche l'indice sulla fiducia delle imprese tedesche, che è stato peggiore delle attese. Per gli operatori, in sostanza, sui mercati è in atto una sorta di sell-on news, il che significa vendere quando esce una notizia. Anche perché, sottolineano gli stessi operatori, gli stress test alla fine sono andati meglio del previsto. Su 131 banche europee, infatti, solo 13 hanno bisogno di rafforzare il capitale. I listini al momento vanno male: Parigi cede lo 0,4, Francoforte lo 0,46, Londra lo 0,10%, Milano è la peggiore, cede l'1,5%. Come hai detto in apertura, crollano i due istituti bocciati dalla BCE. Il Monte dei Paschi di Siena perde quasi il 20%, Carige il 13%, la banca senese, ricordiamo, solo 4 mesi fa aveva chiuso un aumento di capitale da 5 miliardi, ora la BCE ha chiesto ulteriori 2 miliardi di euro, la metà di quanto vale oggi in borsa la società. La Consob questa mattina ha vietato oggi e domani di vendere titoli MPS senza averne la proprietà, le cosiddette vendite allo scoperto. Vanno male anche gli altri titoli bancari, che stamattina erano positivi, quindi Popolare di Milano meno 4,9, UBI meno 4,2, Popolare dell'Emilia Romagna meno 3%, Mediobanca meno 3% e così via. Ricordiamo che oggi alle 15.30 c'è un appuntamento importante, cioè la BCE comunicherà gli acquisti di bond garantiti avvenuti la scorsa settimana. Per il momento è tutto. E grazie a Livia Zancaner per questi aggiornamenti. E per un commento invece ci colleghiamo con Moria Longo del Sole 24 Ore. Moria, buongiorno. Buongiorno a tutti. In realtà il sistema bancario italiano, al di là del Monte dei Paschi e di Carige, non esce così male da questi stress test. No, tutt'altro. Il sistema bancario italiano esce, appunto, eccezione fatta per le due banche che citavi prima, ne esce bene, esce anche con banche che hanno un eccesso di capitale, secondo la Banca Centrale Europea, anche consistente. Intesa San Paolo ha circa quasi oltre 10 miliardi di eccesso di capitale, Unicredit 8. Hanno colpito anche banche come il Banco Popolare o UbiBanca, che hanno un consistente eccesso di capitale considerando le loro dimensioni. Quindi tutto sommato il sistema ne esce bene. Il problema però è che la fotografia della BCE conferma quello che si è sempre detto sul sistema bancario italiano. Esce bene il sistema bancario italiano dalla fotografia scattata oggi, ma la fotografia scattata il 31 dicembre del 2013, il sistema bancario ne esce molto male, con 9 banche bocciate appunto ai bilanci 2013. Questo perché? Perché dopo nel 2014 la Banca Centrale Europea ha imposto a molte banche aumenti di capitale, le banche italiane ne hanno fatti per 11 miliardi, di cui solo 5 il Monte dei Paschi, questo le ha rafforzate. Questo significa che fino all'anno scorso le banche italiane non erano sufficientemente capitalizzate, avevano troppi crediti deteriorati che non svalutavano a sufficienza in bilancio, e questo è il motivo per cui in Italia c'è credit crunch, perché le banche non sono, non, non, non riuscivano a erogare credito perché non avevano capitale. Ora con i bilanci, con gli stress test della BCE, il re è nudo. Si è dimostrato che le banche si sono ricapitalizzate, ma solo adesso, negli ultimi mesi, grazie all'impulso della BCE. Allora, Monte dei Paschi ha una carenza di capitale di 2,11 miliardi di euro, Carige 810 milioni di euro e per importi minori Popolare di Vicenza e Popolare di Milano. Quello che ci stai dicendo, Moria, è che a questo punto le banche che hanno passato gli stress test potrebbero riaprire i rubinetti del credito o quantomeno non hanno più alibi per non riaprirli. Sì, adesso sono sufficientemente stabili e forti, hanno sufficiente capitale per poter riaprire il rubinetto del credito, questo assolutamente, anche per fare aggregazione e quindi rafforzare ulteriormente il sistema bancario italiano che è un po' troppo frammentato. Ricordiamo che oltre a questo la Banca Centrale Europea ha appena erogato finanziamenti finalizzati a erogazione del credito da parte delle banche, sta per iniziare a comprare cartolarizzazioni, cioè sono tutte mosse che la Banca Centrale Europea sta facendo da un lato per rendere solido il sistema bancario, dall'altro per far sì che possa erogare credito. Detto questo, però, nulla è scontato, perché per erogare credito innanzitutto serve una domanda sana di credito, cioè di imprese che vogliono crescere, e soprattutto in un momento in cui la recessione, siamo arrivati al quarto anno di fila di recessione, l'economia è talmente stremata, la qualità delle imprese ormai, non dal punto di vista industriale ma dal punto di vista finanziario, dopo quattro anni di recessione è talmente stremata l'intero sistema economico, che per le banche erogare credito diventa sempre più rischioso. Quindi il problema del rischio dell'erogazione del credito resta. L'unica soluzione non è solo ricapitalizzare le banche, ma è che l'economia torni a crescere, perché sennò l'espansione del credito sarà difficile da vedere. Grazie a Moria Longo del Sole 24 Ore per questa analisi. Noi restiamo sull'economia, ma in questo caso sulla politica economica. Inizialmente attesa per la settimana scorsa, è arrivata oggi la lettera di risposta dell'Italia alla Commissione Europea sulla manovra. Che cosa contiene? Lo chiediamo a Vincenzo Miglietta in diretta da Roma. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. La risposta di Via 20 Settembre ai dubbi dell'Unione Europea è quella di mettere sul piatto poco più di 4,5 miliardi di euro, di fatto un pacchetto di misure che consentirà al nostro Paese di ridurre in modo strutturale di 0,3 punti il deficit nel 2015 contro lo 0,1 previsto nella manovra. Di questa cifra 3,3 miliardi arrivano dal fondo per la riduzione delle tasse, 500 milioni dai fondi per i cofinanziamenti europei, 730 da un'estensione del regime del reverse charge sulle accise. Il prodotto interno lordo dell'Italia, ricorda il ministro dell'economia Padoan, nella lettera inviata al vicepresidente della Commissione europea Katainen, è calato di oltre il 9% rispetto al livello del 2008. L'economia è ora al terzo anno di recessione, da un serio rischio di stagnazione e deflazione. Un quarto anno di recessione, sottolinea Padoan, deve essere evitato in ogni modo. Quanto allo slittamento del pareggio di bilancio al 2017, il ministro dell'economia parla di circostanze eccezionali e comunque va letto nel contesto di un paese che riesce a garantire il rispetto del tetto del 3% nel rapporto deficit-PIL, grazie anche ad un ampio programma di riforme strutturali. Sin qui dunque, Simone, la risposta dell'Italia a Bruxelles sulla legge di stabilità, e c'è un primo commento del portavoce di Katainen che definisce costruttiva la collaborazione del nostro paese sulla manovra. Manovra che nel pomeriggio, lo ricordiamo, il governo illustrerà alle parti sociali. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Intanto resta alto il dibattito all'interno del Partito Democratico sul tema soprattutto del lavoro e dopo la Leopolda e le dichiarazioni di Renzi, mentre su quei temi interviene anche Susanna Camusso. Da un lato il partito della Leopolda, dall'altro quello della piazza della CGIL. È un PD quanto mai diviso quello che esce dal fine settimana appena concluso. Agli attacchi del premier Renzi, che da Firenze ha sfidato chi vuole ad andarsene, la minoranza Dem replica dicendo di non aver nessuna intenzione di lasciare il partito e affila le armi in vista del confronto in Parlamento su Jobs Act e legge di stabilità. Il rischio scissione in queste ore agita però il Nazareno. Dal fronte sindacale nel frattempo torna ad intervenire Susanna Camusso, che chiede al governo di avere il coraggio di mettersi dalla parte dei più deboli, perché stare dalla parte dei più forti è facile, afferma la numero uno della CGIL, che torna ad attaccare Renzi. Quando dice che il posto fisso non c'è più, non sa di cosa parla, dice Camusso. Non sa di cosa parla perché non può da un lato sostenere che la strada è il contratto a tutele crescenti per favorire il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e poi sostenere che l'articolo 18 sarebbe il posto fisso, perché sennò non si capisce che cosa vuol dire contratto a tempo indeterminato e tutele crescenti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il nuovo sindaco di Reggio Calabria è del PD ed è il figlio di uno storico primo cittadino. Italo Falco Mattà è stato sindaco di Reggio Calabria dal 1993 al 2001, quando morì per una grave malattia. Il suo nome viene fatto coincidere con la cosiddetta Primavera Reggina, la città che dopo 2 anni di commissariamento per contiguità mafiose a voglia di un'altra primavera ha scelto suo figlio Giuseppe come nuovo primo cittadino. 31 anni, avvocato, candidato del centro-sinistra, Giuseppe Falco Mattà ha scongiurato il ballottaggio e stravinto al primo turno. 61% dei voti contro il 27% dello sfidante del centro-destra Lucio Dattola. Il candidato del Movimento 5 Stelle Vincenzo Giordano si assesta a distanza siderale. Bassa l'affluenza ai seggi, è stata del 65%, in calo di quasi 10 punti rispetto alle elezioni del 2011. Nella pioggia di congratulazioni a Falco Mattà, anche un tweet del presidente nazionale del PD Matteo Orfini. Gioia immensa, questa vittoria è una rivoluzione. Federico Fumagalli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Domani ci sarà l'audizione, la testimonianza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel processo sulla trattativa Stato-mafia. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì, buongiorno, è un'udienza senza precedenti nella forma e nella sostanza e questo è, per questo viene messo a punto proprio in queste ore quello che davvero succederà domattina al Quirinale. Quando alle 10 la Corte d'Assise di Palermo barcherà l'ingresso del Colle, quello diventerà un'aula del Tribunale di Palermo dove sarà ascoltato il Capo dello Stato come testimone nel processo sulla trattativa Stato-mafia. Porte chiuse e registrazioni vietate per tutte le parti ammesse, ossia giudici, PM e avvocati, e a nessuno di loro sarà consentito registrare in alcun modo la deposizione di Giorgio Napolitano, teste della difesa. Il Presidente risponderà sulla lettera inviatagli dal suo consigliere Loris D'Ambrosio nell'estate infuocata delle polemiche per le intercettazioni con l'ex ministro Nicola Mancino, imputato in questo procedimento, consigliere poi morto pochi dopo per un infarto. Ma Napolitano andrà anche indietro con la memoria fino a quel drammatico 1993, quando lui, da presidente della Camera insieme a Spadolini al Senato, era forse uno degli obiettivi della mafia. La Corte ha infatti un paio di giorni fa ammesso l'interrogatorio anche su una vecchia nota della Sismi con l'allarme attentati anche per l'attuale presidente, e il Colle ha fatto sapere che il presidente intende rispondere su tutto, prima l'esame, poi il controesame da parte degli avvocati, compreso i difensori dei boss che avevano chiesto di essere ammessi in videoconferenza all'udienza, ossia Riina e Bagarella. E per ora da Roma è tutto. Grazie a Raffaella Calandra. Noi passiamo all'estero, innanzitutto il Brasile, dove Dilma Rousseff è stata rieletta presidente al ballottaggio, ma sul filo con circa il 51% dei voti, appunto contro il 49% del suo rivale. Come è stata accolta la notizia dai mercati? Sul mercato dei cambi, il real brasiliano ha subito il peggior ribasso in una singola seduta dal 2011. Il crollo è stato di quasi il 3%. Si è votato anche in Ucraina. Ci colleghiamo con Antonella Scott per capire se abbiamo un quadro sui dati definitivi. Inviata il Sole 24 Ore a Kiev. Antonella, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, ormai i voti che sono stati scrutinati sono più della metà, però sembra confermarsi insomma il quadro che aveva già cominciato a delinearsi questa mattina, la novità grossa è appunto il blocco del presidente Poroshenko, che era dato dai sondaggi in molto staccato, primo staccato da tutti gli altri, in realtà sta combattendo testa a testa con il fronte nazionale del primo ministro Yatsenyuk, che in questo momento è in vantaggio con il 21,61% dei voti, mentre il blocco Poroshenko ne ha 21,45%. Quindi questo vuol dire che sono destinati a essere alleati, però con il premier che, soprattutto se finirà primo, e comunque detterà legge con più forza rispetto chiaramente a, probabilmente. Chiaramente Antonella, parte da una posizione di forza, i due si distinguono perché Poroshenko ha un atteggiamento, come dire, più aperto alla trattativa nei confronti della Russia, mi sembra di capire. Sì, questo è un po' l'atteggiamento che lui ha iniziato ad adottare da quando è stato eletto presidente, nel maggio scorso, prima in campagna elettorale era anche lui più duro e più deciso a a riconquistare i territori che ora sono in mano sotto il controllo dei separatisti. In realtà poi una volta presidente ha adottato un atteggiamento più pragmatico, cioè la consapevolezza che poi comunque alla fine un modo per arrivare a una soluzione negoziale bisogna trovarlo, mentre invece Yatsenyuk è decisamente ostile a Vladimir Putin, ripete che Putin ha come suo obiettivo quello di eliminare l'Ucraina, ricostituire il suo impero, e quindi questo è sia sul fronte della guerra che sul fronte del gas, che ricordiamo ancora non c'è ancora un accordo per la ripresa delle forniture, ecco il fatto che ci sia un Yatsenyuk più forte e una varata, un Parlamento decisamente nazionalista e ostile alla Russia, sicuramente complicherà i piani di Poroshenko e la ricerca di una soluzione un po' di compromesso. Grazie a Antonella Scott del Sole 24 Ore. Ieri si è votato anche in Tunisia. Secondo i primi exit poll, i laici di Nida Tunes sarebbero in testa con il 37% dei voti davanti all'ex prima forza del paese, gli islamisti di Ennahda, fermi al 26%. Per un commento a questo voto nel paese che dette il via alle cosiddette primavere arabe ormai quasi 4 anni fa, ci colleghiamo con Alberto Negri, dell'inviato del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Una tua analisi su questo voto. Ma possiamo chiaramente parlare di un'eccezione tunisina in ogni senso, perché è l'unico dei paesi arabi, il primo dove cominciò la famosa primavera araba, che non è precipitato nel caos e nella violenza. Ricordiamo cosa è accaduto in Egitto dopo Mubarak, che poi si è arrivati alla vittoria dei fratelli musulmani e poi al colpo di stato dei militari del generale al-Sisi, a quello che è accaduto in Libia dopo Gheddafi, un paese che è sprofondato, come sappiamo, nell'anarchia e a maggior ragione con la guerra civile in Siria. La Tunisia in questo panorama rappresenta un'eccezione. Perché? Perché lo Stato e la società civile hanno resistito alla caduta del capo, del Rais, di Ben Ali, mentre gli altri paesi, dopo la caduta del leader, si sono in qualche modo sgretolati, sfaldati, a parte appunto l'esercito e le forze armate in Egitto. Questo successo tunisino però non ci deve abbagliare. La Tunisia è piena di problemi, soprattutto economici, ha una disoccupazione al 40%, rimane comunque un terreno di reclutamento dei jihadisti per la guerra civile in Siria. C'è la vicina Libia da cui rischia di importare un'ondata di destabilizzazione. E in più bisogna vedere se Nida Tunes riuscirà ad avere la maggioranza in Parlamento, pare di no. Quindi succederà che dovranno comunque i due partiti, sia quello islamico sia quello dei laici, arrivare a un compromesso nel tentativo di portare fuori la Tunisia dalla crisi economica. Chi vorrà prevalere, vorrà essere egemone, probabilmente rischierà in qualche modo di portare la Tunisia sull'orlo ancora della crisi. Grazie Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sulla manovra arriva la risposta dell'Italia a Bruxelles, va evitato il quarto anno di recessione o risollevarci sarà un problema. Il risultato degli stress test affonda Monte dei Paschi, che cede il 20% in borsa, e Carige, che perde il 13% in netto calo, la borsa di Milano in questo momento dell'1,73%. L'Ucraina vota per l'Europa, ma il partito di Poroshenko, più aperto alla trattativa con Mosca, non ha la maggioranza per governare da solo. In Tunisia intanto le elezioni premiano i laici. Saluto Nicola Dall'Olio, che è consigliere comunale di Parma del Partito Democratico. Buongiorno Dall'Olio. Buongiorno. La notizia l'avete sentita nei nostri titoli iniziali. L'allerta meteo per Parma era arrivata in realtà 2 giorni prima dell'alluvione. Era arrivata nella giornata di sabato. La denuncia è arrivata proprio da Dall'Olio. C'è stata una polemica col sindaco Pizzarotti, che tra l'altro ha anche le deleghe per la protezione civile. Chiarisco, per evitare insomma discussioni anche via sms con gli ascoltatori, che abbiamo cercato il sindaco Pizzarotti e non ci ha risposto. Vorrei sapere da lei, Dall'Olio, che cosa è successo e che cosa le risulta. Ma risulta che per 2 anni e mezzo il tema della protezione civile è stato ignorato da questa amministrazione, tanto che appunto non sono state date delle deleghe, ma non sono state date non per una scelta, ma perché si è ignorato questo tema e quindi non si sono aggiornati i piani di protezione civile rispetto a una legge del 2012 e non si sono approntati dei piani di emergenza per delle zone a rischio, come la zona a rischio di esondazione che poi sono state allagate in occasione dell'alluvione del torrente Baganza del 13 ottobre scorso. Questo di fatto ha portato anche a sottovalutare una serie di allerte e soprattutto di preallarmi, perché è vero che sabato è arrivata un'allerta meteo da parte della protezione civile regionale, ma comunque queste sono allerte che devono soprattutto servire a organizzare al meglio poi i servizi di pronto intervento per i giorni che sono previsti. Era un'allerta che riguardava quasi tutta l'Emilia Romagna. In realtà poi lunedì sono arrivate molte altre, tre allerte, di cui una, un preallarme alle ore 2 proprio rivolto ai sindaci del torrente Baganza e torrente Parma per un preallarme piena che chiedeva di fatto che venissero approntate delle misure rapidamente. È evidente che senza un piano di emergenza e avendo sottovalutato le cose in questo modo poi non si è fatto poco. Quindi mi scusi, è arrivata la preallerta alle 2, l'esondazione vera e propria a che ora c'è stata e quando è arrivato il primo allarme del comune? Alle 4:30, 4:40, lì poi dopo alle ore 4 è arrivata anche un allarme vero e proprio della protezione civile, quindi ci si è mossi quando ormai l'acqua stava già esondando e quindi per esempio dai poliambulatori di un ospedale che è stato allagato ne sono usciti le persone e anche i pazienti con l'acqua ormai già alla cintola. Ecco, questi sono stati i problemi che si sono verificati. E questo in sostanza per quanto riguarda le allerte. Quindi l'allerta di sabato in realtà riguardava tutta la regione. Da quel che ho capito c'è stata anche una questione burocratica, per così dire, no? Nel senso che questa allerta doveva essere protocollata, non è arrivata, non ho capito bene. Come funziona? Ma guardi, queste allerte vengono spedite sia via fax, sia con posta elettronica certificata e quello che il sindaco non dice anche attraverso SMS con un programma apposta. L'allerta di cui si parla anche sui giornali nazionali è stata inviata sabato ed è stata effettivamente protocollata, ce l'ho davanti, lunedì, sulla base anche di un sollecito della prefettura. Le altre allerte sono state di fatto diramate sempre per posta elettronica il lunedì stesso a mezzogiorno, alle 2 il preallarme pieno e alle 4 proprio l'allarme vero e proprio, ma a quel punto insomma la situazione era già molto critica e si sapeva che nella zona a monte il torrente stava già esondando e c'erano state precipitazioni intensissime, davvero eccezionali. Grazie a Nicola Dall'Olio, consigliere comunale di Parma del Partito Democratico, e se il sindaco Pizzarotti fosse in ascolto, chissà mai, lo abbiamo cercato, continuiamo a cercarlo, se volesse parlare di questa vicenda, naturalmente siamo pronti. Noi adesso ritorniamo alla politica per parlare di uno scontro, anche qua, anche in questo caso c'è in mezzo il Movimento 5 Stelle e il Presidente della Sicilia, Rosario Crocetta. C'è stata una discussione dopo naturalmente l'intervento di Grillo ieri. Dovremmo aver pronto il servizio, non ce l'abbiamo pronto. Allora saluto Domenico De Masi, professore emerito di sociologia del lavoro all'Università La Sapienza di Roma. Professor De Masi, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, ha visto come si sta concentrando la polemica in queste ore? Matteo Renzi che dice il posto fisso non esiste più. A dire la verità non è il primo, lo disse già la Fornero 2 anni fa e ad essere sinceri ho trovato qualcuno su Twitter che lo scriveva oggi e che mandava un titolo di giornale di qualche anno fa, 1999, lo diceva anche Massimo D'Alema. È vero, professore, che non esiste più il posto fisso? Ma guardi, io studio sociologia del lavoro da una quarantina d'anni e non riesco a capire in che accezione viene usata la parola, le parole posto fisso. Cioè, posto fisso di solito intendeva il lavoro, il posto di dipendente con un contratto a tempo indeterminato, che poi è quello che Renzi sta cercando di estendere, cioè con la sua riforma vuole che un numero crescente di giovani acceda finalmente, sia pure per tappe, a un posto a tempo indeterminato. Se per posto fisso si intende il posto a tempo indeterminato, beh, in America sono il 72%, in Italia sono circa il 70%, quindi lungi dal non esserci più è ancora la stragrande maggioranza. È una stragrande maggioranza. Professore, quello che le voglio chiedere, a lei che osserva naturalmente questo mercato, che è il mercato del lavoro, la nuova struttura industriale che si sta costituendo, il nuovo modello produttivo, no? Che comporta anche forti oscillazioni negli ordini, per esempio, che arrivano alle aziende, anche questo deve modificare strutturalmente il mercato del lavoro e lo modifica strutturalmente in quella direzione? Ma lei giustamente connette l'andamento del mercato del lavoro alle nuove tecnologie che consentono naturalmente un flusso completamente diverso, consentono per esempio di personalizzare molto di più i prodotti, per cui non ci sono più abiti unici e neppure automobili uniche ormai. Bisogna stare attentissimi a volte la tecnologia, perché la tecnologia ha un'incidenza determinante sul mercato del lavoro, mentre le tecnologie meccaniche, per dire il tornio e così di serie, la trepiatrice automatica e così di serie, il martello pneumatico distruggevano posti di lavoro, ma ne creavano a loro volta più di quanti ne distruggessero, come per esempio le ferrovie, che hanno creato più posti di lavoro di quanti ne hanno distrutto e di quanti cavalli hanno eliminato. Le macchine di tipo elettroniche, quelle attuali, purtroppo tolgono più posti di lavoro, distruggono più posti di lavoro di quanti ne creano. Questo significa che il lavoro è una merce che si riduce, non che aumenta, o perlomeno non aumenta come aumentano invece quelli che vorrebbero lavorare. Faccio un esempio, sì, la stampante a dimensioni, sì, che ci consentirà di avere in casa gli oggetti senza passare attraverso i negozi, distruggerà milioni di posti di lavoro. Questo significa che non basterà più neppure la flessibilità con cui la si intende oggi. C'è poco da fare. Grazie a Domenico De Masi, professore emerito di Sociologia del Lavoro all'Università La Sapienza di Roma. Giuseppe Falcomatà, neo sindaco di Reggio Calabria, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. 32 tutti. Anni, reduce da 31, una notte 31, reduce da una appena notte fatti, appena fatti, reduce da una notte di festeggiamenti, immagino. Senta Falcomatà, molto brevemente, le prime due, tre cose che intende fare a Reggio. Ah, guardi, questa è una città che ha un estremo bisogno di ritornare alla normalità, e questo è quello che abbiamo percepito nel corso di una campagna lunga, più di un anno, sui territori, nelle circoscrizioni, nei quartieri degradati. Essere città normale significa ripristinare i servizi pubblici essenziali, e questo è quello che chiede la città. Naturalmente la prima operazione da fare è un'operazione trasparenza sui conti del comune. Reggio viene da uno scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose, quindi è chiaro che merita chiarezza, è chiaro che merita di ripartire da due cose che sono l'affermazione delle regole e la programmazione amministrativa. Riesce ad essere un filino più concreto, sindaco? Cosa farà? Pubblicherà il bilancio, farà analizzare il bilancio, lo pubblicherà, questo rimane. È già abbastanza chiaro così. Sì. Sì, no, vabbè, trasparenza significa anche questo, non è soltanto la pubblicazione del bilancio. Sfido chiunque, tranne gli addetti ai lavori, a capirci qualcosa da questo elenco di nomi e numeri che alla fine dà insomma un risultato di parità tra entrate e uscite. Quello che bisogna fare è dare intanto la possibilità ai cittadini di pagare quelli che sono i tributi locali online, cosa che a Reggio Calabria ancora purtroppo non si può fare, ma soprattutto fargli capire quelli che sono i movimenti del comune stesso, fargli capire dove vanno a finire i soldi che loro versano nelle casse del comune. Questa è la trasparenza, questa è la rendicontazione che ci piace, naturalmente attuando anche i meccanismi di bilancio partecipato, rendendo partecipi i cittadini di quelle che sono le scelte fatte dal comune. E c'è qualcosa di simbolico invece che vuole fare subito? Perché questi sono tutti. La cosa di simbolico è molto importante, è quella della riapertura degli asili nido comunali che purtroppo in città sono chiusi. Naturalmente anche questo passa dal iniziare a capire qualcosa di quello che andremo a trovare nelle casse del comune. Ecco cosa significa operazione trasparenza: fare capire alla città davvero quali sono i conti reali che in città ci sono. Reggio è una realtà abbastanza particolare, questo è il primo passo per avviare un rapporto di trasparenza continuo e costante con i cittadini. Però simbolicamente riaprire gli asili comunali nella nostra città è una cosa fondamentale. Grazie a Giuseppe Falcomatà, neo sindaco di Reggio Calabria, appena eletto. Prima di andare in pausa, una risposta all'ascoltatore che dice che ci occupiamo del fax di Parma e non dell'alluvione di Genova. Le segnalo che sono, da quando c'è stata l'alluvione di Genova, che praticamente dedichiamo due appuntamenti almeno a settimana esattamente all'alluvione di Genova e anche alle responsabilità istituzionali. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Arriva la risposta dell'Italia a Bruxelles sulla manovra. Va evitato il quarto anno di recessione o risollevarci sarà un problema. Prima replica dalla Commissione, che dice collaborazione costruttiva. Il risultato degli stress test affonda Monte dei Paschi che cede il 20% e Carige che perde il 13% negativa alla borsa di Milano. Il governo australiano ha annunciato che sospende l'immigrazione dai paesi dell'Africa occidentale colpiti da Ebola. L'Ucraina vota per l'Europa, ma il partito di Poroshenko, più aperto alla trattativa con Mosca, non ha la maggioranza per governare da solo. Meridiano conferma la mobilità per 1.600 persone in centinaia a Roma, davanti al Ministero. La borsa. Borse in diretta. Il calo in questo momento è del 2,12% per il FTSE MIB, del 2,08% per il FTSE All Share. Naturalmente su tutto questo pesano gli stress test sulle banche europee, che hanno segnalato che ci sono quattro banche italiane, in realtà di cui due in particolare, che hanno bisogno di maggiori capitali. Isabella Tasso, Radio Corriere 24 Ore, è così, no? Sì, è così, buongiorno. A Piazza Affari appunto le vendite sono soprattutto sulle due banche che sono state bocciate agli stress test della Banca Centrale Europea, al Monte dei Paschi, che come anticipavi cede quasi il 20%, questo malgrado il divieto di vendita allo scoperto da parte della Consob, ribasso del 13% anche per Carige, il timore che gli istituti debbano ricorrere al mercato per compensare il deficit di capitale. Ci sono sul mercato anche ipotesi di aggregazioni con banche più robuste, ipotesi che al momento non riescono a sostenere i titoli. Vanno male peraltro anche le azioni degli istituti, che hanno invece superato bene i test della BCE, come UBI che perde comunque il 5%, Intesa meno 2,5%, Unicredit meno 2,5%, BPM meno 5%, debole anche Mediobanca che domani diffonderà la trimestrale. Grazie anche per oggi Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Andrea Mascia, pilota Meridiana, buongiorno. Buongiorno a voi. Dove si trova? Siamo sul Cestello, siamo andati giù a fare una piccola intervista con le TV locali. Sul Cestello dove? Perché i nostri ascoltatori non lo sanno. Ah certo, mi scusi, siamo su un cestello che è nella sommità di un palo per illuminare i parcheggi dell'aeroporto del Olbia Costa Smeralda. Siamo a 38 metri di altezza. Da quanto? Oggi dovrebbe essere il tredicesimo giorno. Tredicesimo giorno sul Cestello. Lo sa che sarà in contatto con i suoi colleghi che sono a Roma? L'azienda pare che abbia confermato la mobilità per 1.600 dipendenti. Sì, 1.634, sono importanti anche i 34. Sono importanti anche i 34, 1.634 dipendenti. E adesso partirà la mobilità, forse partirà addirittura oggi, dice Meridiana. E voi che fate? Rimanete là comunque? Guardi, noi se rimaniamo qui, abbiamo un cestello di 3 metri quadrati, viviamo in due, io e il mio amico Alessandro. E continuiamo a stare qui a coordinare e a coordinarci con gli amici che stanno giù a terra, c'è un centro di coordinamento e penso che andremo a manifestare anche a Parigi. Andrete a manifestare a Parigi, quindi scenderete dal cestello per andare a manifestare a Parigi. Perché Parigi? Parigi perché è la città dove risiede il nostro azionista. E quindi la vostra protesta non si fermerà sostanzialmente? No, noi abbiamo considerato sin dal momento in cui siamo saliti qui sul palo, abbiamo considerato questa come prima fase di questa avvertenza lavoro. È un'avvertenza lavoro che è significativa per la Sardegna, non è l'unica, ma noi ci sono i pastori, ci sono i minatori, ci sono gli agricoltori, ci sono tutti, ogni settore dell'industria sarda e persino anche il turismo. Grazie ad Andrea Mascia, capitano di Meridiana, appunto a 13 giorni in cima ad un palo del parcheggio dell'aeroporto di Olbia per protestare contro gli esuberi. Noi torniamo a parlare del Partito Democratico, lo facciamo oggi con l'inchiesta di Daniele Biacchessi. Dopo la convention della Leopolda a Firenze e la manifestazione della CGIL a Roma, le due correnti del PD si sono rese talmente visibili che oggi si sono trasformate in due PD, due veri partiti organizzati che si muovono in modo antitetico uno con l'altro. Con la Leopolda Renzi si avvia a costruire il cosiddetto Partito della Nazione, composto in buona parte da imprenditori, giovani talentuosi, lavoratori autonomi, un elettorato moderato, fluttuante, che proviene anche dal vecchio centrodestra. Gli esponenti del PD presenti invece al corteo della CGIL sono tentati di raccogliere lo zoccolo duro, cioè la base del partito. Ma quanto possono valere in termini di mercato politico questi due blocchi contrapposti? Il PD oggi ha poco meno di 239.000 iscritti, ma il suo bacino elettorale oscilla nei sondaggi tra il 40 e il 42%. Renzi ha dunque portato il partito, stimato oggi, di circa 9 punti in più rispetto allo storico break-even del 33,4%. I calcoli che circolano in queste ore nelle sedi dei principali istituti demoscopici e di sondaggi ipotizzano che, in caso di scissione, il cosiddetto Partito della Nazione o partito di Renzi non supererebbe il 31-32% e i suoi oppositori sarebbero quantificabili nel 10%. Assisteremo cioè nelle prossime settimane a numerosi tentativi di riappacificazione, ma soprattutto la minoranza del PD sarà presto costretta a scegliere: organizzare l'opposizione nel partito oppure avviare un nuovo progetto politico con sé e l'altra Europa. Una scissione che però viene considerata in modo preoccupato in via del Nazareno a Roma, la momentanea casa dell'unificato Partito Democratico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Washington, Mario Platero. Beh, perché sono a Washington? Perché c'è stato il grande evento annuale degli italo-americani, National Italian American Foundation, e beh, è un evento, devo dire, che crea sempre un grande ponte transatlantico fra noi e i nostri cugini americani. Cominciamo da questa interpretazione di uno dei partecipanti alla festa. Sentite la qualità di questo tenore alla Pavarotti. Festone, devo dire, emozioni degli italoamericani, ricordi di nonni, misdonni che sono immigrati negli Stati Uniti con niente. Per noi, in rappresentanza di cugini italiani, c'erano il ministro dell'industria Federica Guidi e Roberto Maroni, presidente della regione Lombardia, premiata come regione d'onore. Ecco, devo dire, non c'è stato soltanto il gala, perché tra venerdì, sabato e domenica ci sono stati convegni, riunioni con un tema centrale, un tema molto importante: Expo 2015. Se ne è parlato al congresso. Joseph Del Raso, il presidente del NIAF, ha organizzato un piccolo dibattito. Se ne è parlato in ambasciata con l'ambasciatore americano in Italia John Phillips e con il nostro ambasciatore a Washington Claudio Bisognero. C'è stato, devo dire, anche un intervento del gruppo Sole 24 Ore con il nostro amministratore delegato Donatella Treu per parlare di apertura, perché Expo 2015 significa apertura, significa un abbraccio al mondo. Ebbene, il Sole 24 Ore ha lanciato proprio a Washington un'anteprima di un quotidiano digitale interamente fatto in inglese che sarà lanciato alla fine di questa settimana. Feeding the planet, energy for life is the theme of Expo Milan 2015. Tema forte, tema centrale, la sostenibilità alimentare, ma tema forte di questa missione